Intanto che la zia conversava così con Françoise, io accompagnavo i miei genitori alla messa. Come l'amavo, come la rivedo ancora la nostra chiesa, il vecchio portale d'ingresso, nero, traforato come una schiumarola, contorto e profondamente incavato negli angoli, non meno dell'acqua santiera a cui ci conduceva. Come se il dolce sfioramento dei mantelli delle contadine al loro ingresso in chiesa e delle loro dita timide quando attingevano l'acqua benedetta, ripetuto nei secoli, avesse potuto acquistare una forza distruttiva, piegare la pietra e incidervi solchi come ne lascia la ruota dei carretti sui paracarri urtati giorno dopo giorno. Le sue pietre sepolcrali, sotto le quali la nobile polvere degli abitanti di Combray l'ha sepolti, forniva al coro una sorta di pavimento spirituale, non erano più nemmeno loro di materia inerte e dura. Il tempo le aveva rese dolci e fatte colare come miele oltre i bordi dei loro riquadri, che qui avevano tracimato in un'onda dorata, trascinando alla deriva una maiuscola gotica a fiori e sommergendo le bianche violette del marmo, e altrove invece si erano riassorbite, contraendo ancora l'ellittica iscrizione latina, inserendo un capriccio in più nella disposizione di quei caratteri abbreviati, avvicinando due lettere di una parola, mentre le altre erano state distanziate a dismisura. Le vetrate non erano mai così cangianti come nei giorni in cui il sole si mostrava appena, di modo che, se fuori era grigio, si era sicuri che dentro la chiesa sarebbe stato bel tempo. Una vetrata era occupata in tutta la sua grandezza da un unico personaggio, simile a un re delle carte da gioco che viveva lassù, sotto un baldacchino architettonico tra cielo e terra, e nel cui riflesso obliquo e azzurro, a volte nei giorni feriali a mezzogiorno, quando non c'è funzione, in uno di quei rari momenti in cui la chiesa arieggiata, vuota, più umana, sfarzosa, con il sole che ne lambiva i ricchi arredi, aveva un aspetto quasi abitabile, come la sala di pietra scolpita e di vetro dipinto di un palazzo di stile medievale, si vedeva Madame Sazerat inginocchiarsi un istante e posare sul banco accanto a lei un pacchetto ben confezionato di pasticcini appena comprati nel negozio di fronte e che portava a casa per il pranzo. In un altro punto, una montagna di neve rosa, ai piedi della quale si svolgeva un combattimento, sembrava avere spruzzato di brina anche il vetro che gonfiava del suo turbinoso nevischio, come il pannello di una finestra su cui fossero rimasti dei fiocchi di neve, ma fiocchi rischiarati da un'aurora, senza dubbio la stessa che imporporava il retablo dell'altar maggiore, di toni così freschi che sembravano posati là fuggevolmente da un chiarore esterno prossimo a svanire, più che da colori connaturati da sempre alla pietra. E tutte erano così antiche che si vedeva qua e là splendere della polvere dei secoli la loro argentea vecchiaia e mostrare, brillante e logora fino alla corda, la trama della loro dolce tappezzeria di vetro. Una di esse era costituita da un'alta intelaiatura suddivisa in un centinaio di piccole vetrate rettangolari, in cui dominava l'azzurro, come un grande solitario di quelli che dovevano svagare il re Carlo VI. Ma bastava che brillasse un raggio di sole o che il mio sguardo, spostandosi, facesse oscillare lungo la vetrata, di volta in volta spenta o riaccesa, un mutevole e prezioso incendio, perché un attimo dopo assumesse lo splendore cangiante di una coda di pavone, per poi tremolare e ondeggiare in una pioggia fiammeggiante e fantastica che gocciolava dall'alto della volta oscura e rocciosa lungo le umide pareti, come se io seguissi i miei genitori con i loro messali in mano in una navata di qualche grotta iridescente di sinuose stalattiti. Un attimo dopo, le piccole vetrate a losanga avevano assunto la trasparenza profonda, l'infrangibile durezza degli zaffiri giustapposti su un immenso pettorale. Ma dietro di loro si sentiva, più caro di tutte quelle ricchezze, un fugace sorriso di sole. Lo si riconosceva tanto nel flusso azzurro e soave di cui inondava le pietre, quanto sul selciato della piazza o sulla paglia del mercato. E anche nelle nostre prime domeniche, quando si arrivava prima di Pasqua, Quel sole mi consolava del fatto che la terra fosse ancora nera e nuda, facendo sbocciare, come in una storica primavera che risaliva al tempo dei successori di San Luigi, quel tappeto abbagliante e dorato di miosotis di vetro. Due arazzi ad alti licci rappresentavano l'incoronazione di Esther. Secondo la tradizione, Assuero vi appariva con i tratti di un re di Francia e Esther con quelli di una dama di Guermantes, da lui amata, e i loro colori, fondendosi, ne avevano accentuato l'espressività, il rilievo, la luce. Un po' di rosa fluttuava intorno alle labbra di Esther, oltre il disegno del loro contorno. Il giallo del vestito si spandeva così untuoso, così carico, da assumere una sorta di consistenza e si stagliava vivamente in quell'atmosfera soffocata. E il verde degli alberi, ancora vivo nelle zone inferiori del pannello di seta e di lana, ma sbiadito in alto, faceva risaltare nei loro toni più pallidi, al di sopra dei tronchi scuri, gli alti rami biondeggianti e dorati e come cancellati dalla brusca e obliqua luce di un sole invisibile. Tutto questo, e più ancora i preziosi oggetti donati alla Chiesa da personaggi che erano per me quasi leggendari, la croce d'oro lavorata, si diceva, da Saint-Éloi e donata da Dagobert, la tomba dei figli di Louis le Germanique in porfido e rame smaltato, a motivo dei quali, per raggiungere le nostre sedie, io mi inoltravo nella chiesa come in una valle visitata dalle fate, dove il contadino stupisce di scorgere in una roccia, in un albero, in uno stagno, la traccia palpabile del loro passaggio soprannaturale. Tutto questo ne faceva per me qualcosa di completamente diverso dal resto della città. Un edificio che occupava, per così dire, uno spazio a quattro dimensioni. La quarta era quella del tempo, dispiegando attraverso i secoli la sua navata, che di campata in campata, di cappella in cappella, pareva sconfiggere e oltrepassare non soltanto qualche metro, ma epoche successive dalle quali usciva vittoriosa, nascondendo il rude e selvaggio secolo undicesimo nello spessore dei suoi muri, da cui riemergeva, con i suoi pesanti archi murati e resi ciechi da rozze pietre, solo attraverso la profonda fessura scavata nei pressi dell'atrio dalla scala del campanile e anche là dissimulato dalle graziose arcate gotiche che facevano ressa civettuole avanti a lui come sorelle maggiori che sorridendo si mettono davanti a un fratello minore villano, brontolone e malvestito perché gli altri non lo vedano. Innalzando nel cielo, al di sopra della piazza, la sua torre che aveva visto Saint-Louis e sembrava vederlo ancora, e sprofondando con la sua cripta in una notte merovingia in cui, guidandoci a tentoni sotto la volta buia e munita di potenti nervature come la membrana di un immenso pipistrello di pietra, Théodore e sua sorella ci illuminavano con una candela la tomba della nipote di Sigebert, sulla quale una profonda valva, come l'impronta di un fossile, era stata incavata, si diceva, da una lucerna di cristallo che la sera dell'assassinio della principessa Franca s'era staccata da sola dalle catene d'oro cui era sospesa nel luogo dove adesso c'è l'abside e, senza che il cristallo andasse in frantumi e che la fiamma si spegnesse, si era conficcata nella pietra, la quale aveva dolcemente ceduto sotto il suo peso. L'abside della chiesa di Combray, si può dirlo, era davvero grossolana, davvero sprovvista di bellezza artistica e persino di slancio religioso. All'esterno, poiché l'incrocio delle strade sulle quali si affacciava era a un livello inferiore, la sua rozza muraglia sorgeva su un basamento di grosse pietre non levigate, irte di sassi, e che non aveva nulla di particolarmente ecclesiastico. Le vetrate sembravano aprirsi a un'altezza eccessiva e tutto l'insieme aveva più l'aria di un muro di prigione che di chiesa. E certo, più tardi, quando ripensavo a tutte le gloriose absidi che mi è capitato di vedere, non mi sarebbe mai venuto in mente di accostarle all'abside di Combray. Un giorno però, alla svolta di una piccola strada di provincia, di fronte all'incrocio di tre viuzze, Mi sono imbattuto in una muraglia consunta e sopraelevata, con alte vetrate disposte asimmetricamente come nell'abside di Combray. Allora non mi sono chiesto, come a Chartres o a Reims, con quale potenza vi fosse espresso il sentimento religioso, ma involontariamente ho esclamato: «La Chiesa!» La Chiesa, familiare, in rue Saint-Hilaire, dove si apriva la sua porta nord, a mezza strada fra le sue due vicine, la farmacia di Messier Rapin e la casa di Madame Loiseau, costruita in appoggio alla chiesa, semplice cittadina di Combray, che avrebbe potuto avere il suo numero civico, se le vie di Combray avessero avuto numeri civici, dove c'era da aspettarsi che al mattino il portalettere avrebbe dovuto fermarsi durante la consegna, prima di entrare da Madame Loiseau e uscendo da Messier Rapin. C'era tuttavia, fra la chiesa e ciò che la chiesa non era, un confine che la mia mente non è mai riuscita a superare. Madame Loiseau poteva ben avere alla sua finestra delle fucsie, che prendevano la cattiva abitudine di lasciar correre i loro rami da ogni parte sempre a testa bassa, e i cui fiori, quando erano abbastanza cresciuti, non avevano niente di più urgente da fare che andare a rinfrescare le loro guance violette e congestionate contro la scura facciata della chiesa. Non per questo le fucsie divenivano sacre ai miei occhi, e se tra i fiori e la pietra annerita sulla quale si appoggiavano i miei occhi non percepivano alcuna distanza, la mia mente continuava a percepire un abisso. Il campanile di Saint-Hilaire lo si riconosceva da molto lontano inscrivere la sua linea indimenticabile nell'orizzonte in cui Combray non appariva ancora. Quando dal treno che la settimana di Pasqua ci portava da Parigi, mio padre lo scorgeva profilarsi progressivamente su tutti i solchi del cielo, facendo correre in tutte le direzioni il suo galletto di ferro, ci diceva: «Avanti, prendete le coperte, siamo arrivati». E in una delle passeggiate più lunghe che facevamo a Combray, c'era un punto in cui la strada incassata si apriva di colpo su un immenso pianoro, chiuso all'orizzonte da foreste frastagliate, su cui sola svettava la punta sottile del campanile di Saint-Hilaire, ma così esile, così rosea, da sembrare appena scalfita nel cielo da un'unghia che avesse voluto dare a quel paesaggio, a quel quadro tutto naturale, piccolo segno d'arte, quell'unica indicazione umana. Quando, avvicinandoci, si potevano scorgere i resti della torre quadrata e semidiroccata, che meno alta resisteva accanto al campanile, si era colpiti soprattutto dalla tonalità rossastra e cupa delle pietre, e in un mattino brumoso d'autunno si sarebbe detto che a innalzarsi al di sopra del viola temporalesco delle vigne fosse un rudere di porpora del colore della vite vergine. Spesso, quando rientravamo, la nonna mi faceva sostare sulla piazza per guardarlo. Dalle finestre della sua torre, collocate a due le une sopra le altre, con quella giusta e originale proporzione delle distanze che conferisce dignità e bellezza non solo ai volti umani, il campanile liberava, lasciava cadere a intervalli irregolari dei voli di corvi che per un momento volteggiavano gracchiando, come se le vecchie pietre che li lasciavano trastullarsi, fingendo di non vederli, divenute d'un tratto inabitabili e sprigionando un principio di agitazione infinita, li avessero percossi e respinti. Poi, dopo aver striato in tutti i sensi il velluto viola dell'aria della sera, calmatisi bruscamente, tornavano a immergersi nella torre, da nefasta ridivenuta propizia, alcuni posati qua e là, apparentemente immobili, ma forse intenti a ghermire qualche insetto sulla punta di un'aguglia, come un gabbiano fermo sulla cresta di un'onda con l'immobilità di un pescatore. Senza sapere bene perché, la nonna trovava nel campanile di Saint-Hilaire quell'assenza di volgarità, di presunzione, di meschinità, che le faceva amare e credere ricche di influsso benefico sia la natura, quando la mano dell'uomo non l'avesse svilita, come faceva il giardiniere della Porzia, sia le opere di genio. E senza dubbio, da qualsiasi parte la si osservasse, la chiesa era diversa da ogni altro edificio per una sorta di pensiero che vi era infuso. Ma era nel campanile che sembrava prendere coscienza di sé, affermare una propria esistenza individuale e responsabile. Era il campanile a parlare in suo nome, Io credo soprattutto che confusamente la nonna trovasse nel campanile di Combray ciò che per lei aveva più valore al mondo, la naturalezza e la distinzione. Ignorante di architettura, diceva: «Figli miei, burlatevi pure di me se volete, non sarà bello secondo i canoni, ma il suo vecchio volto bizzarro mi piace. Sono sicura che se suonasse il pianoforte non pesterebbe sui tasti». E nel rimirarlo, seguendo con gli occhi la dolce tensione, la fervente inclinazione delle sue pendici di pietra, che innalzandosi si avvicinavano come mani giunte in preghiera, aderiva così bene allo svettare dell'aguglia che il suo sguardo pareva condividerne lo slancio, e nello stesso tempo sorrideva amichevolmente alle vecchie pietre consunte di cui il tramonto non rischiarava ormai che la cima, e che dal momento in cui entravano in quella zona illuminata dal sole, addolcite dalla luce, apparivano d'un tratto proiettate molto più in alto, lontane, come un canto ripreso in falsetto un'ottava più su. Era il campanile di Saint-Hilaire che dava a tutte le occupazioni, a tutte le ore, a tutte le vedute della città il loro volto, il loro coronamento, la loro consacrazione. Dalla mia stanza ne vedevo solo la base, che era stata rivestita di lastre di ardesia. Ma quando la domenica, in un caldo mattino d'estate, le vedevo avvampare come un sole nero, mi dicevo: «Mio Dio, le 9, devo prepararmi per la messa solenne se voglio prima avere il tempo di salire a dare un bacio a zia Leonì». E sapevo esattamente il colore del sole sulla piazza, l'afa e la polvere del mercato, l'ombra proiettata dalla tenda del negozio, dove la mamma forse sarebbe entrata prima della messa in un odore di tela grezza per acquistare qualche fazzoletto che le avrebbe mostrato il padrone, impettito, appena sbucato dal retrobottega, dove, preparandosi a chiudere, era andato a infilarsi la giacca della domenica e a sciacquarsi le mani, che ogni 5 minuti aveva l'abitudine di sfregare l'una contro l'altra, anche nelle circostanze più tristi, con aria intraprendente da incontro galante e di successo. Quando, dopo la messa, entravamo da Theodore per dirgli di portare una brioche più grossa del solito, perché i nostri cugini, approfittando del bel tempo, erano venuti da Tibersia a pranzo da noi, avevamo davanti a noi il campanile, che, dorato e cotto anch'esso come una più grande brioche benedetta, con scaglie e sgocciolature gommose di sole, infilava la sua punta aguzza nel cielo azzurro. E la sera, quando rientravo dalla passeggiata e pensavo al momento di lì a poco in cui avrei dovuto dare la buonanotte alla mamma e non vederla più, era invece così dolce nel giorno che moriva da sembrare posato e affondato come un cuscino di velluto scuro nel cielo impallidito, che cedendo alla sua pressione s'era leggermente incavato per fargli posto e rifluiva lungo i suoi bordi. E i gridi degli uccelli che gli volteggiavano intorno sembravano accrescerne il silenzio, slanciare ancor più la sua cuspide e conferirgli un che di ineffabile. Anche durante le commissioni che si dovevano fare dietro la chiesa, da dove non era possibile vederlo, tutto sembrava disposto intorno al campanile, che spuntava qua o là tra le case, ancora più commovente forse quando appariva così senza la chiesa. E certo ve ne sono molti altri di più belli visti in quella prospettiva, e ho nella memoria immagini di campanili che si innalzano sopra i tetti di ben altra qualità artistica rispetto a quelle che ritraggono le malinconiche strade di Combray. Non dimenticherò mai, in una curiosa città della Normandia, nei pressi di Balbec, 2 magnifici palazzi del 700 che per molti versi mi sono cari e venerabili, e tra i quali, guardando dal bel giardino a terrazze che scende verso il fiume, la guglia gotica di una chiesa che essi nascondono si slancia come a completare, a sormontare le loro facciate, ma con una materia così diversa, così preziosa, così inanellata, così rosea, così patinata, che si vede bene che non ne fa parte, certo non più di quanto la cuspide porporina e dentellata di una conchiglia affusolata a forma di torretta e lucida di smalto appartenga a 2 graziosi sassolini tra i quali sulla spiaggia si è rimasta prigioniera. Anche a Parigi, in uno dei più brutti quartieri della città, conosco una finestra da cui si può vedere, dietro un primo, un secondo e addirittura un terzo ordine, costituito dai tetti ammonticchiati di diverse strade, una campana viola, a volte rossastra, a volte perfino, nelle prove d'artista più pregevoli che ne tira l'atmosfera, di un nero decantato di ceneri, che altro non è se non la cupola di Saint-Augustin, e che dà a quella veduta di Parigi il carattere di certe incisioni romane di Piranesi. Ma dato che in nessuna di quelle piccole incisioni, quale che sia il gusto con cui le ha eseguite, la mia memoria ha potuto infondere quanto da molto tempo avevo perduto, il sentimento che ci induce a considerare una cosa non come uno spettacolo, ma a crederci come in un essere senza uguali, nessuna di esse tiene in suo potere tutta una parte profonda della mia vita, quanto il ricordo di quelle visioni del campanile di Combray nelle viuzze dietro la chiesa. Sia che lo si vedesse alle 5 del pomeriggio quando si andava a ritirare la posta, a poche case di distanza, a sinistra, sovrastare bruscamente con la sua punta isolata la linea di displuvio dei tetti, o invece, volendo passare a chiedere notizie di Madame Sazerat, si seguisse con lo sguardo quella linea di nuovo abbassarsi al di là dell'opposto spiovente, sapendo che bisognava svoltare nella seconda strada dopo il campanile. O ancora, spingendoci più lontano verso la stazione, lo si vedesse mostrare obliquamente di profilo nuovi spigoli e superfici nuove, come un solido colto in un momento ignorato della sua rivoluzione, o se dalle rive della Vivonne l'abside muscolosamente raccolta e rialzata dalla prospettiva desse l'impressione di scaturire dallo sforzo compiuto dal campanile per lanciare la sua cuspide nel cuore del cielo, era sempre a lui che si doveva tornare. Era sempre lui a dominare tutto, sovrastando le case con un pinnacolo inatteso, levato davanti a me come il dito di Dio, il cui corpo fosse rimasto nascosto tra la folla degli umani, senza che per questo potessi confonderlo con loro. E ancora oggi, se in una grande città di provincia o in un quartiere di Parigi che conosco poco, un passante che mi ha indicato la strada mi mostra in lontananza come punto di riferimento la torre di un ospedale, il campanile di un convento che innalza la punta del suo zucchetto ecclesiastico all'angolo di una via che devo prendere, basta che la mia memoria vi possa vagamente riconoscere qualche tratto di somiglianza con il caro e scomparso profilo, perché il passante, se volge il capo per assicurarsi che io non mi perda, possa stupirsi di vedermi là fermo per ore, immobile davanti al campanile, dimentico della passeggiata intrapresa o della commissione da fare, nel tentativo di ricordare, sentendo in fondo a me terre sottratte all'oblio rassodarsi e riedificarsi. E allora, certo, e più ansiosamente di poco prima, quando gli ho chiesto l'informazione, cerco ancora la strada, svolto in una via, ma solo nel mio cuore.